breve per capire quante ragazze mi sono lasciato sfuggire. Solo per un bacio io mi sono innamorato delle tue labbra dolci come zucchero filato. Io ti cerco ma sei una meta irraggiungibile dall'altra parte del mare, colmo delle mie lacrime. Io voglio cantare solo per ricordare una ragazza magica come le onde del mare. Sullo sfondo nero tu sei la mia stella, ho capito che tu sei la mia anima gemella. Solo due parole in quella notte speciale, ti amo. Sullo sfondo nero tu sei la mia stella, ho capito che tu sei la mia anima gemella. Solo due parole in quella notte speciale, ti amo come le onde del mare. La storia l'ho vissuta ad ogni secondo, abbracciati a coccolacci accompagnati dal tramonto. Annuntato sulla spiaggia mi dicessi di non andare, io non ti rividi più, ti incominciai a cercare. Volevo che la storia non avesse fine, ma nelle favole non c'è sempre lieto fine. Te ne sei andato una voragine nel cuore, questa canzone do vita alle mie parole. Sullo sfondo nero